verso un satellite, una porta che sbatte, una distrazione, un'aberrazione, un giubbotto di pelle nera fuori stagione, mi va rotta di collo, dalla pelle al midollo, ma cosciente affamato vivo, senza paura di niente adesso scrivo, innamorati dei sogni, che nessuno te li porta via, nessuno te li porta via. Il vento sta cambiando, il sole splende, c'è chi lotta, chi si arrende, c'è chi dice cose nuove, c'è chi è morto e non lo sa. Sta cambiando, il sole splende, c'è chi lotta e chi si arrende, c'è chi dice cose nuove, c'è chi è morto e non lo sa. Il paese soffre di amnesie, il futuro è negato ormai, la bugia sdoganata, la gente imparata, un peggio che si disperde alla prima sassata, ma i ragazzi hanno il karma, sono ordini inesplosi, le speranze di una generazione, sui binari morti alla stazione, notti di fuoco e di tempesta, e cariche di polizia, notti di fuoco e di tempesta. Il vento sta cambiando e il sole splende, c'è chi lotta, chi si arrende, c'è chi dice cose nuove, c'è chi è morto e non lo sa. Sta cambiando e il sole splende, c'è chi lotta e chi si arrende, c'è chi dice cose nuove, c'è chi è morto e